che Dio dal cielo stasera si è preso due rondini, le ha spinte a volare sul fumo che resta per dare un'idea migliore di sé. Qualche diavolo anche lui si è preso due rondini per levare dal fuoco una pentola nera dai manici. Io le ho prese per raggiungervi la sera quando voli via. Se guardi nel cielo di sera e son finite le rondini, è che ognuno le ha prese a suo tempo, a suo modo, ai suoi ordini. Io le ho prese per raggiungerti. Basterà guardare lontano. Se oggi non vedi, non basterà. Domani, come non è servito ieri. Se ora non credi, trovare il momento preciso, quel che lasci andare in terra non è perso nel minuto esatto in cui è caduto. Non basterà. Sapere che gli alberi fanno radici, come il vento e le ali, ma non per questo amici. Non basterà lasciare. fissarti i miei occhi stupito. Lo so che non puoi avere avuto quello che hai toccato solamente con un dito. Non basterà. Sapere che gli alberi fanno radici come il vento e le ali, ma non per questo, amici. Come va? Avete desideri esprimibili in pubblico? Io sto qui per tentare di realizzarmi. Drin! Chi è? Ciao, Pinolino, sono Nicoletto Astrobelli. Ho sentito il tuo disco, me l'ha dato Stefano Senardi, volevo fare un disco rock, ma che tu scegliessi come delle canzoni. Dai, chi è? Il numerino sono Nicoletto Stambelli, vorrei fare un disco rock con te. Mi ha dato il tuo numero con Stefano Senardi, il tuo disco molto bello. Dai, chi sei? Il numerino poco ti sono Patti Bravo. Volevo fare un disco con te, mi ha dato il tuo numero Stefano Senardi, se vieni con me. Ne parliamo. Via 24 maggio, io ci vado da Patti Bravo, via 24 maggio, ve lo dico perché non abita più lì. Vedo l'ascensore, vi ricordate l'ascensore di Profondo Rosso? Quello che... Non lo prendo, terzo piano a piedi arrivo al tappetino, campanello senza nome, tappetino, dimmi, suono e apre Patti Bravo. Sottoveste trasparente, con sotto niente, ma veramente niente, perché qua in Brasile c'è stata 3 mesi dopo, quindi sono messo cose sotto, ma in quel momento con solo sottoveste non c'era veramente niente. Perdonami, io non ho avuto il tempo di cambiarmi. Ma che faccio, rimango qui in Nicoletta o entro? Lei non mi risponde e prende, avete presente quei posaceneri a gambo, quelli con la rotella, no? E incomincia a fare. Guardami. Sono la tua statua della libertà. Ecco qua. Io sono entrato in casa, siamo stati 2 giorni in casa chiusi, arrivò a un certo punto anche Ivano a Spagna, che parla come Patti Bravo, con le buste della spesa, e diceva, ho incontrato Bush. Ci siamo tutti 2 giorni in casa, e scrivendo anche per altre persone, oltre che per me, abbiamo tirato fuori una canzone, di cui lei si è innamorato tantissimo. A un certo punto, in modo tardivo, si è resa conto che la canzone terminava in 3/4, era un valzer. Lei mi chiamò con una bestemmia dicendo, Pino Marino, ma il rock è in 4. Nicoletta, se tu riesci a portarlo in 4, la facciamo diventare rock, altrimenti rimane un valzer. La canzone fa così. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, e 3/4 a rimasta, ragazzi. Io resto qui solo per guardarti, anche senza voce, solo per guardarti. Tu un altro per te, anche senza voce, tanto uguale, anche senza voce, tanto uguale. Con un pulsante guadagno un canale diverso, dove prima c'era un uomo, adesso l'uomo non c'è più, disperso. Città sospende. Io resto qui solo per guardarti, anche senza voce, solo per guardarti. Tu un altro per te, anche senza voce, tanto uguale, anche senza voce, tanto uguale. Allora mi sorprendo a immaginare tutti quelli che davanti ad un televisore si sorprendono a guardare anche senza voce tutto quello che si muove. E allora mi sorprendo a immaginare tutto quello che si muove nella vita intera senza mai passare neanche per un'ora nel televisore di nessuno. Ora mi sorprendo a immaginare che qualcuno è certamente più di uno, sia convinto che sia vero solo quello che si muove nello schermo nero. E ancora mi sorprendo a immaginare che qualcuno è certamente più di uno, sia convinto che sia vero solo quello che si muove nello schermo nero, nero, nero. Attende solo l'azzurro di una pubblicità sospende. Visto che sono qui fra gli ulivi, '96, un editore mi fa: senti, le due cose sono molto complicate, non so se esiste un pubblico, in attesa che ne arrivi uno ti va di scrivere per qualcun altro? Ho fatto: beh sì, sono un ragazzo emancipato, non ho nessun tipo di remora, non ho neanche vincoli, non ho neanche preconcetti. Bene, si tratta di Albano Carrisi. No! Guarda che Albano Carrisi, dopo Nel Sole, quando il sole, non c'ha più una bella canzone, lascia perdere tutto Albano, Mina, tutte cose, non c'è più Albano, è uscito, ha venduto 4.000 copie, non c'è più. Io vorrei dare a Albano una seconda canzone della sua vita, dopo Nel Sole un'altra, che gira il mondo e la fa. Ci chiuse in una stanza, a me e a Maurizio Fabrizio, il compositore di Almeno Tu nell'Universo, di Mia Martini per intendere. Da questa stanza usciamo con questa canzone. Io sono il paroliere, è il compositore musicale del ritornello, per il quale mi sono ispirato al Nabucco. No. E Maurizio Fabrizio è l'autore musicale delle strofe. Andiamo a Celino San Marco e ho scoperto che Albano Gerrisi non abita a Celino San Marco. Albano Gerrisi è proprietario di Celino San Marco. E dice: dove vuoi dormire? Ma è bello quel posto, dormi lì! Ed è incredibile, perché io sono partito con un leggero preconcetto, perché ero rock alternativo, facevo Albano Gerrisi, è stato uno shock incredibile, 1996, però da lì è partita anche la possibilità di lavorare in questo campo. E Albano Gerrisi è incredibile perché gira fra gli ulivi, fra le sue piante, con il trattorino, e sta con il cortisone fisso, perché lui reagisce, le persone chiedono facci un acuto, lui improvvisamente fa l'acuto, è come facce tarza, capito? È una cosa, Albano faccia e lui è, e quindi ormai sta a cortisone perché canta a secco, personaggio incredibile. Bene, vado, perché io ho scritto su lui questa cosa, stasera la faccio in un altro modo, non vi immaginate Albano, io ve la faccio come l'ho pensata scrivendola, va bene? Torno presto. Ci ho messo tanti anni per fare questa cosa. Ho taciuto a lungo, ho mentito altrettanto a lungo, ho fatto finta di niente per una buona parte di tempo e improvvisamente a Lecce in un concerto la faccio e c'è un fotografo, Piero, non mi ricordo, capelli bianchi, amico storico di Albano, che la sente e fa: aspetta, chiamiamo Albano. Lo chiama: Albano, e qui c'è Pino Marino che ha fatto la tua canzone. Domani venite in piscina da me. Ma lo so fare, certo. Sì, ma aspetta, non ti ho detto tutto, gli fa il fotografo. Piero Marsili. Sì, ma io l'ho capita per la prima volta, tu la strilli, questo la canta. Seguendo un volo che già sa. quale casa andare a vivere. E la mia età che se ne va, e quanto amore via con lei, è la mia vita che passa e se Silvestri, mio amico, e Samuele Bersani, mio gradito conoscente. Se la sono litigata, la faccio io? Non la faccio io. Sì, io però la spezzo, la faccio in due tonalità diverse. No, ma la faccio io. Ma tu l'hai fatto il provino? Sì, però l'ho fatta io. Me la son tenuta. Per questa cosa l'ho tenuta. Mi diverte. La vita è tanto amara quando uno produce qualcosa che lo diverte, è bene tenersela stretta, perché la navigazione è impervia e quindi la felicità passa anche attraverso piccole imperfezioni di allegria come questa, papparapparappara, e non gliel'ho dato. Ipocrita, passare il limite di una velocità, la distanza di sicurezza solo lei ti salverà da una vita andata fuori dagli omaggi osceni di ogni sua pubblicità, venduti al lato di una strada che non porta mai dove ti va. Certezza vien di notte quando il buio certo ne sarà, il giorno poi ti porta via con la certezza di una libertà, quella che gli amori vivi o muori non ti lasceranno certo mai, rimani a 30 metri, frena e prendi solo ciò che vuoi. Ipocrita, passare il limite della tua libertà, quello che hai raggiunto fino a ieri non è dovuto alla velocità, se un dolore lascia il segno, un errore impegno lo conosci già, venduto al lato di una strada che non porta mai dove ti va. Sera in realtà mi chiesero il senso della musica d'autore, della canzone d'autore, l'affiancamento con la poesia, scrivi prima il testo, tutte queste cose qui. E spesso quando uno si trova a rispondere, spesso uno quando è costretto a rispondere si interroga e trova la sua risposta. E quindi ho pensato che in realtà il serbatoio della scrittura, la parola in questo periodo storico è abbastanza diritta, no? Perché si dice tanto, troppo, ovunque, e quindi la propagazione inutile della parola, come la propagazione inutile di ogni cosa, avvilisce la cosa stessa. Ora non serve neanche più parlare bene l'italiano, anche se l'italiano è stato decapitato e si parla una lingua poverissima, però anche usandolo degnamente, in realtà c'è troppo parlato, c'è troppo commento, giudizio, punto di vista. Sì, mi piace, non mi piace, io penso che in fondo, ma allora tu però hai detto. E quindi credo che in questo momento di impasse della parola, di strautilizzo della parola, occorre responsabilmente che chi ne fa uso faccia 2 o 3, 4 passi indietro, anche 20-30 in alcuni casi, il mio per esempio, e torni a riproporne quando essenziali. Un'altra possibilità della parola è trovare dei punti di vista diversi. Questo è ovviamente un tramonto. Quindi se io dico tramonto, per averlo così tante volte detto e tante volte ascoltato, neanche mi giro. Perché tramonto è tramonto, immagino mare, non solo, montagne, uliveti, tramonto, il sole che scende, eccolo là, tramonto. Se io lo chiamo l'ultimo tipo di rosso del sole trainato nel buio, tu fai, vabbè, non c'ho tempo, vado via. Ma se rimani, e qui facciamo selezione forte, se rimani fai l'ultimo tipo di rosso del sole trainato nel buio. Cazzo, il tramonto! E improvvisamente, scusate per il termine tramonto che è un po' forte. E improvvisamente torna ad avere una, quantomeno, una visione nuova. Non è nuova, ma è una rivisitazione. E questo è il compito di, in attesa di tempi migliori, anzi magari per procurarne tempi migliori, andare a cercare angolazioni diverse, punti di vista diverse. E quindi vi propongo questa cosa qui. Stefano Bollani questa cosa, che faceva delle altre cose seduto per terra, e lui con la mano sinistra non vede l'ora di rifarla anch'io, anche se in modo indegno. Mi faccio finta di bere, prendo il bicchiere, si scioglie l'ultimo tipo di rosso del sole trainato nel buio, si sciolgono le voci, silenzio in strada, nei rami parlano mosse dal vento, parole, frasi impigliate, rimaste prese nei rami del giorno. Ce n'è una che dice perdonati e non morirai, e alla parte che manca concedile quella che hai. Provincia delle stelle luminose, dove accade il mistero banale di vivere troppo senza amore. Ma se va, se va, se va, se vado via da qui, si muove la speranza via con me di avere indietro l'anima se c'è. Ma non va, non va, non va, vado via da qui e resto appeso agli occhi tuoi stasera, e dondolando passa via la notte nera. Appeso agli occhi tuoi stasera e dondolando passa via la notte nera. E rimango a non capire, passata via la lampada del sole, se il destino si muova convinto o inciampi anche lui e al resto pensi il tempo. Giro solo, solo, solo, salto ma non volo via da qui. Mi tiene a terra l'ombra mia che ride, che non mi lascia solo ma non mi ama ancora. E adesso che non guardi e non muovi le tue labbra ormai da un'ora, signora che aspetti l'errore di un uomo che invece parla ancora. Vanità che confondi le mani, vorrei ancora avere i tuoi occhi lontani, lontani da me. Vanità che confondi le mani, vorrei ancora avere i tuoi occhi lontani, lontani da me. Pianista fra di voi? Pianista? C'è qualcuno che può anche indecorosamente mettere le mani sul pianoforte? Sì. C'è? Però è la seconda, no? Quindi. Indecorosamente? Sì. Guarda, saresti l'espressione dei nostri denti, quindi in realtà in questo momento stai a livello attoriale assumendo un ruolo rispetto a società. La senti? Va? Abbiamo altri volontari? Vai. Se abbiamo un volontario, altrimenti faccio da me, eh? Ce l'abbiamo? Alberto! Grande Alberto! Ma con la sedia come Glenn Gould? Con la sedia come Glenn Gould, sì. Allora Alberto, adesso facciamo una cosa insieme. Non so, io non canto, c'ho una rosceria progressiva fulminante. Michele, una cortesia. Di questo thank you. Alberto, Alberto, fai finta che io sia un mediocre direttore d'orchestra e segui la dinamica della mia mano fino a chiudere e salire. Un giorno, e dico un giorno, tutti quanti gli animali sottomessi al lavoro decisero di eleggere un presidente che gli guardasse gli interessi loro. C'era la società degli maiali, la società del toro, il circolo del basto e della soma, la Lega Indipendente, c'era già la Lega Indipendente, fra i somari residenti a Roma c'era la fratellanza degli gatti soriani, degli gatti siamesi, degli cani, degli cavalli senza vetturini, la Lega fra le vacche, bovi e affini. Tutti, e dico tutti, piorno parte all'adunanza. Un somarello che per l'ambizione de fasse elegge s'era messo addosso la pelle d'un leone disse: bestie elettore, io so commosso la civiltà, la libertà e il progresso. Ecco il vero programma che c'ho io, che è lo stesso del popolo, per cui voterete compatti il nome mio. Difatti venne eletto proprio lui. Il somaro contento fece un raglio. Grosso modo. E allora il popolo bestione s'accorse dello sbaglio e t'ave piato un ciuccio pel leone. E allora mi farò lo imbroglione, buvattaro, salviniano. Qui l'ho sentito, qui c'avete partecipazione contemporanea, l'ho sentita. Laziale, questo è un fatto personale. Disse allora il somaro: ho piato possesso e non la pianto né manco si morite d'accidente, quindi silenzio e rispettate il presidente. Alberto! Meglio di noi toccano l'eternità, gli alberi meglio di noi toccano l'eternità, gli alberi meglio di noi toccano l'eternità, gli alberi meglio di noi toccano l'eternità. Sbagliati paragoni fra braccia e rami, sbagliati paragoni fra braccia e rami. La fame non conosci, conosci la voracità, la fame non conosci, conosci la voracità. C'è Michele, Michele, Michele! Che problemi abbiamo, Michele? Facciamo acqua? Vino? Va tutto bene? Mi sono fermato inutilmente? Dimmelo, dimmelo. Questa è una delle più gravi regole dello spettacolo. Non interrompere mai. Io sinceramente Mi hanno detto, in teatro non si fischia, Pino Marino. Ma veramente, no, in teatro non si fischia. Voi sapete perché si dice tanta merda per augurare? Lo sapete, vero? No? Quando si dice, ah, allora, tanta merda, si dice ovviamente nel campo dello spettacolo, è perché praticamente un tempo si andava a teatro con le carrozze. Quindi tanta più merda c'era fuori, cacca di cavallo, ragazzi, fuori dal teatro, tanta più gente era accorsa allo spettacolo. Quindi augurare tanta merda era semplicemente questa. Ma che non si potesse fischiare in teatro, e poi ho saputo anche il motivo, è una regola incredibile. E recentemente, l'anno scorso, scrivendo la colonna sonora, le musiche di uno spettacolo teatrale con la regia di Vinicio Marchionni, che è uno zio Vania di Chekhov, che abbiamo fatto in 40 date l'anno scorso, partendo da Firenze, Teatro della Pergola, lo spettacolo inizia con un tema di solo fischio. Ma è andata benissimo, quindi posso dirvi che si possono anche infrangere delle rigorosissime regole. Ne ho appena fatto uno, mi sono fermato e adesso riprenderò da dove mi sono fermato. E tutto corre verso il lato di minore resistenza. E tutto corre verso il lato di minore resistenza. E tutto corre verso il lato di minore resistenza. Ah, ah, ah, ah. Tutto corre verso il lato di minore resistenza. C'è già chi ha scelto e mastica denaro, fra noi c'è già chi ha scelto e mastica denaro, fra noi c'è già chi ha scelto e mastica denaro, fra noi c'è già chi ha scelto e mastica denaro, uomini possenti e cercatori d'oro, uomini possenti e cercatori d'oro, ma l'oro in bocca toglie valore ai denti, ma l'oro in bocca toglie valore ai denti. Il cielo si tocca solo con le ali e un pesce qualunque più di me conosce i mari. Ai vermi la terra, l'odore già dei fiori, agli uomini rimangono soltanto le parole. Attenti alle parole, allora attenti alle parole. Attenti alle parole, allora attenti alle parole. Attenti alle parole, allora attenti alle parole. Attenti alle parole, allora attenti alle parole. Che tutto corre verso il lato di minore resistenza. E tutto corre verso il lato di minore resistenza. E tutto corre verso il lato di minore resistenza. Tutto corre verso il lato di minore resistenza. I miei amici Daniele Silvestri, Niccolò Fabbi e Max Gazzè si sono riuniti in tre, confabulando, hanno sentenziato che l'amore non esista, facendone titolo da propagandare nel loro tour, facendo di questa idea un singolo radiofonico. E fondamentalmente, non essendo favorevole ai singoli radiofonici, mi sono trovato anche contrario alla loro idea, formulandone un'altra da solo. Riunendomi con me stesso faccio delle plenarie incredibili e ho tirato fuori l'idea che l'amore, più che non esistere, tenda a non ricordare. Quindi che l'amore non ricordi, in realtà, è un'altra possibilità. Ma sentite la chitarra? No. C'è qualcosa che non va? Va bene? Perché vedo il tuo occhio perplesso. Tu al tuo. Mi ci metto nella lettura del pensiero? E ho letto, ma perché suona così poco quella chitarra? Forse ho letto quello a fianco, era il tuo? ricorda dove ha già messo i piedi e dai passi sbagliati mi pare non impari. Se la pazienza ha un limite, dov'è che smette il cuore? E nell'ultimo centimetro del vaso l'acqua tiene in vita un fiore. Qui non si muove nuvola se non si muove vento, non si volta pagina se il dito non sta attento. Il bianco e nero libera all'appalto dei colori e mi guardi da una foto da cui tutto il mondo ormai rimane fuori. Le luci di una casa da una finestra accesa disegnano il rettangolo caduto sulla strada. La luce propria illumina e misura le distanze, non lascia dubbi in giro e non giudica l'altezza dalle ombre. Il fiume che oggi scivola un giorno era torrente, il futuro di chi scorre sta sempre alla sorgente. L'amore non ricorda, oppure non gli credi, il resto è una regina in cima al mondo o un passante che non vedi. L'amore non ricorda. L'amore non ricorda, dov'è che smette il cuore? L'amore non ricorda, le luci di una casa. L'amore non ricorda, il fiume che oggi scivola. L'amore non ricorda, l'amore non ricorda. In tempo di crisi, quella economica è una crisi secondaria, in realtà la crisi economica è una conseguenza a cascata in quarto, quinto grado di crisi peggiori. La crisi economica è una conseguenza di una crisi etica, morale, comportamentale. No. Ma come no? Dico sul serio. No, lui no. Ah, lui no. Ah, ho pensato di essere smentito improvvisamente da te, piccoletta, e ho avuto tanta paura. Per quanto secondaria, è conseguenza di crisi maggiori, quella economica comporta degli inconvenienti, li implica. Fra questi c'è lo spostamento, il movimento facile di musicisti talentuosi ma poveri. Come si fa a spostare un'orchestra di 30 elementi? Non si sposta più. Come si fa a far venire un poeta russo in Italia? Non si può più fare. Ma il prodigio della tecnica analogica, DDK D46, non prendetela da 90 perché il nastro è troppo lungo, 60 tanto, ma l'ideale per i certosini è 46 minuti. Attraverso questo prodigio della tecnica anni 60, 50, 70, metà 80, noi abbiamo qui questa sera, malgrado la crisi gli imponga di non muoversi da dov'è, il nostro amico musicista Piotr, in collegamento diretto dalla Piazza Russa. Prokiekse, Prodieska, Prodaszkie, Piotra, Piazza, Rusiki, Probatskia gemellagica, prodischi legambientichi, Mradoski e Brodici, Repubblica Operaica, prodieschi gemellagici, formichi, formichi prodieschi piazzica, saga, saga. Allora, saga, saga è letteralmente traduci, traduci. Piotr dalla Piazza Rossa dichiara di essere gemellato con Legambiente e praticamente patrocina la festa ambiente ogni anno, sono praticamente 30 anni che partecipa, a, forse ne ha saltata qualcuno, a che anno siamo? 30, non è assaltata neanche una Piotr, quindi. E dichiara esplicitamente il suo forte entusiasmo per le compagne operaie formiche qui presenti. Non so come abbia fatto, ma questo è successo. Quindi, care formiche, avete i saluti da Piotr dalla Piazza Rossa. Tutti insieme, saluto alle formiche tra gli lì. Senza paura, ragazzi, senza paura. Non temete. Non è mai caduto il braccio a nessuno. Prabdieschi, Piotra, Sibrodieschi, Simonetta Grechi, Probieschi, ringraziamenti, Caprodieschi, Fraternica, Michele Fonichi, Probieschi, Saga, Saga. Io traduco letteralmente, non sono responsabile, ma traduco letteralmente, provo una forte attrazione sessuale per te. Dice che lui praticamente verrebbe qui anche soltanto per te, ma apprezza anche da lontano le tue prestazioni tecnico-foniche nelle circostanze limitrofe a questa azione serale. E non di meno ringrazia Simonetta, dice che è appassionato di lui, per lui è un'attrazione erotica, di lei è proprio un amore, e ha detto salutami direttamente la compagna Simonetta Grechi. Adesso non so se questa cosa sia... Si può dire in questo luogo greco. Pedischi e ringraziamenti ca meravigliosi chi pubblica prodischi ulivetichi. Ormai avete il russo in pugno, giusto? Non occorre che io faccia altro. E come lui di solito fa, credo che ci dedicherà a questo punto il suo... brano di repertorio. Ca italiana musica. Infatti, me l'aspettavo. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, no, dico ciao, bambina, non ti voltare, non posso dirti rimani ancora come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro mare. Parole nuove, ma piove, piove su. sul nostro mare parole nuove, ma piove, piove sul nostro. Da svidenia a te, Piotr, stai bene. Amore.